La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Rossano Ercolini è un maestro di un piccolo paese nella provincia di Lucca. Ha una compagna e una vita tutto sommato tranquilla, fino a quando ogni cosa non viene messa in discussione, fino a che Rossano non dovrà scegliere e percorrere una nuova strada di protesta, di ribellione prima e poi di costruzione. Nella sua zona, tra le sue campagne, vogliono infatti costruire un inceneritore. Rossano non ci sta e comincia il suo percorso. È questa la sua prima volta, una volta che lo porterà lontano, sino ad incontrare il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ma andiamo per gradi. Sono un maestro elementare e nello stesso tempo mi trovo già dagli anni, fine anni 70, a occuparmi di problemi ambientali, ma non particolarmente dei problemi legati alla gestione dei rifiuti. Comincio a occuparmene nel 1976, quando vicino casa mia vogliono realizzare una discarica che poi non verrà realizzata, e per un lungo periodo però, pur occupandomi dei problemi ambientali, non mi occupo più direttamente di gestione dei rifiuti, fino a quando nel 1994 la Regione Toscana decide di accelerare l'iter, commissariando la responsabilità della tale realizzazione, due impianti di incenerimento in provincia di Lucca, uno nel mio comune di Capannori, e l'altro invece in Versilia, a Pietrasanta, in località Palascaia. Sono insegnante in una scuola elementare che si trova a circa 2 chilometri in linea d'aria dal luogo dove avrebbe dovuto sorgere l'inceneritore, e la prima cosa che mi sento quasi obbligata a fare è quella di informare i bambini e i genitori, semplicemente proprio per la mia professione, missione di educatore. E allora comincio a alternare questa attività di mattina con l'attività di attivista che svolgo invece di sera. La mattina spesso porto un sacco nero della spazzatura, con i bambini lo apriamo, vediamo che ci sono materiali e non ci sono scarti, se non mischiamo la frazione unica umida con il resto non ci sono scarti, e allora cominciamo a promuovere un vero e proprio movimento di massa, di apprendimento di massa. Accanto al no all'inceneritore, e quindi con esperti che richiamano l'attenzione ai rischi di questi impianti, parliamo soprattutto di che cosa fare se non vogliamo fare l'inceneritore. E così inizia questa mia personale sensibilizzazione sulle alternative. Poi tutto quanto al momento non era chiaro, ma tutto quanto poi sfocerà nel movimento Rifiuti Zero, che poi incontreremo, essendo una realtà internazionale, la incontreremo col mio gruppo, perché io ho un gruppo che si chiama Ambiente Futuro, e faremo venire in Italia un professore americano, un professore di chimica, Paul Connett, e di lì partirà la zattera Rifiuti Zero. Naturalmente ormai la battaglia di Capannori la vinciamo nel 1997, e da lì cominciano a chiamarci. Cioè, lei nel 97 vince una battaglia significativa, cioè qua stiamo parlando di una battaglia veramente significativa, nel senso che l'inceneritore non si fa più, perché no. Voi riuscite a dimostrare che si possono abbattere completamente i rifiuti, cioè si può arrivare a un riciclo totale, diciamo, dei rifiuti. Ma dunque, lavoriamo sempre sul duplice fronte. Da un lato ci opponiamo quindi anche attraverso ricorsi al TAR, attraverso piccoli grandi interventi, cerchiamo di far scivolare la macchina amministrativa della realizzazione dell'inceneritore, ci riusciamo, però contemporaneamente ci preoccupiamo di dimostrare che su scala industriale, su scala di massa, può funzionare un'alternativa applicando quel principio che noi impariamo a trasformare in slogan, secondo cui nessun rischio è accettabile se è evitabile. Siccome si può fare senza l'inceneritore, si può trovare una soluzione migliore per la salute, l'ambiente e anche per i posti di lavoro, ecco, a noi interessa questo. E cominciamo a, vinta la battaglia, a spingere l'amministrazione comunale a adottare quelle che poi chiameremo in seguito le buone pratiche rifiuti zero. Un pochino di tempo passa prima che nel 2005 parta il porta a porta sul comune e immediatamente vediamo che la popolazione è molto più matura di quanto sembra, produce l'80% di separazione di raccolta differenziata, e quindi nel 2007 poi diciamo facciamo un passo ulteriore, lo proponiamo al sindaco, perché non fare di Capannori il primo comune italiano che adotta ufficialmente la strategia rifiuti zero, un po' sul modello della California, e il sindaco dopo poco cede a queste lusinghe e immediatamente ci risponde positivamente. Da lì poi la storia io la descrivo sempre: una volta che si apre la porta di Capannori è come se il sassolino si trasformasse in pietra, la pietra in macigno, il macigno ormai è diventato una valanga. Perché ormai sono tantissimi quelli che stanno aderendo, che le stanno chiedendo? Ma noi siamo in difficoltà, è una difficoltà di crescita, nel senso che essendo rifiuti zero ma anche soldi zero, non avendo staff, è difficile riuscire a rispondere alle decine e decine di mail che ci chiedono da parte di semplici cittadini, spesso di assessori, spesso anche di esperti e di gestione dei rifiuti, che ci chiedono di visitare Capannori oppure ci chiedono semplicemente dei consigli. Cioè, in questo momento io riassumo lo stato di salute del progetto Rifiuti Zero con l'immagine, cioè Rifiuti Zero è fashion, è figo se posso usare una parola, sì, diciamo, per i giovani, insomma, più diretta. Senta, anzi, prego. No, mi dica. No, il problema adesso è che rischiamo, proprio perché è fashion e figo, che poi si possano, non dico infiltrare, ma insomma un po' giocare al trucco del cavallo di Troia, inserire dei soggetti che poi magari cominciano a dire noi siamo rifiuti zero e poi magari fanno tutt'altro. Ecco, dobbiamo salvaguardare diciamo il disciplinare rifiuti zero, un po' come quando si dice un'azienda è biologica ma deve fare questo e questo, bisogna fare le dovute verifiche. Senta, ma lei a un certo punto nella sua battaglia riceve anche una chiamata insolita, diciamo, nel senso che lei è uno dei pochi che è stato chiamato, addirittura preso ad esempio da Obama per quello che lei ha fatto. Cioè, lei ha ricevuto il Goldman Prize, che tra l'altro è un premio che poche volte gli italiani ricevono, e lì, in quel contesto, insomma, di incontri importanti ne ha fatti. Come è andata? Ci racconta? Beh, insomma, io sono stato a lungo sotto shock, dico la verità, piacevole, perché sapevo che ormai c'era un grande interesse attorno a Rifiuti Zero, le nostre iniziative riuscivano, però francamente immaginare che c'era un grande fratello, un grande occhio, che seguiva questo mio percorso, addirittura il sistema del Goldman Prize, ovviamente l'ho scoperto successivamente, me l'hanno descritto, è di incaricare delle spie, cioè delle persone che ti conoscono e a tua insaputa devono informare il jury del premio circa richieste che vengono codificate attraverso un questionario. Quindi quando mi arrivò la telefonata della direttrice dello staff della Goldman Foundation, io poi lo descrivo lì, è stato un momento spassosissimo, piacevolissimo, di grande casino, con i bambini intorno che mi sentivano parlare in inglese, e poi dopo tutta l'avventura. E cosa ha detto ai bambini dopo la telefonata? Io ho capito quando ho finito la lezione, perché io non conoscevo, sapevo che esisteva il Goldman Prize, però ovviamente da lì a immaginare che mi avevano chiamato per quello, E poi dopo ho realizzato che sì, che avevo vinto questo premio. Quante cose che non sai di me. E così la storia dell'inceneritore scompare. Chi voleva costruirlo se ne va e l'area di Lucca diventa un punto di osservazione per molti. Ad Ercolini guardano anche dagli Stati Uniti, che, come dirà lui stesso, premiano la vision, il suo essere visionario e coraggioso. Questo è l'inizio della storia del maestro Ercolini. La prima volta. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Questa è la storia di un uomo, un maestro elementare che vive in un piccolo paesino di Lucca, un luogo dove vogliono fare un inceneritore. Il maestro Ercolini non ci sta e mette in piedi un sistema di cittadinanza attiva che arriva a dimostrare agli amministratori locali che si può differenziare fino all'80-90%. E il fatto che stiano per mettere un inceneritore a casa loro che motiva i cittadini a seguire la spinta visionaria del maestro Ercolini, che nel giro di poco tempo coinvolge il suo e molti altri paesi della zona. La sua decisione, la sua battaglia partita dal basso, viene premiata dagli americani che gli danno il Goldman Prize, un premio molto importante. Mi avevano immediatamente detto: il premio consiste in $150,000, quindi insomma l'impatto è stato notevolissimo. E poi questo invito cogente, nel senso obbligatorio: se io non avessi accettato di andare là 10 giorni non avrei ricevuto il premio, questo sta nel regolamento del premio. E l'invito a andare passando da Londra, dove peraltro sono stato alla BBC, quindi insomma è un'opportunità che non succede ai comuni mortali quali sono io se non avessi avuto questo premio. E poi c'è stata l'avventura americana, devo dire San Francisco, bellissima, è una città, forse in questo momento è la città ambientalmente più avanti a livello internazionale. Eh sì. E poi seppur Washington mi è piaciuta di meno perché è un po' simile a Roma, più burocratica, più... Però devo dire, l'incontro con Obama, l'incontro con la Nancy Pelosi, questa informalità che comunque anche le persone potenti o potentissime hanno, mi ha colpito. Ecco, mi ha colpito, io non sono, è la seconda volta che andavo negli Stati Uniti, mi ha colpito questa ingenuità di fondo che hanno anche a livello molto alto. Quando siamo stati ricevuti dall'EFA, dal direttore con tutto lo staff, ci hanno applaudito, ci hanno... da grandi amici, ecco, francamente questa cosa mi ha colpito e mi veniva in mente invece il clima italiano di persone anche magari così, che poi non particolarmente importanti, che se la tirano, no? Che magari ti guardano dall'alto in basso, questo essere un po' vecchi, no? Non stare a vedere effettivamente quello che di cui si è portatori in positivo, ma di far apparire che sia importante, una caratteristica che purtroppo troppo spesso in Italia abbiamo e che invece, almeno per la mia impressione, ho visto che insomma, poi l'incontro con Obama è forse può essere un paradigma, ecco, ce lo racconti. Li avevano, cioè l'abbiamo saputo dopo, li avevano, c'era stato 2 giorni prima l'attentato a Boston, quindi insomma negli Stati Uniti c'è questo nervo scoperto della paura del terrorismo. E il giorno stesso che ci ha ricevuto aveva praticamente subito la sconfitta della non approvazione della propria proposta di legge sulla regolamentazione delle armi. Nonostante questo lui è venuto sorridente, amichevole, ha fatto un, seppur breve, ma un discorsino di 5-6 minuti, diciamo pensato proprio, dicendo che la cittadinanza attiva, i grassroots, sono un'opportunità straordinaria per lottare contro la crisi ambientale globale del pianeta. Quindi insomma lui effettivamente, seppure la cosa è durata 20 minuti, tuttavia ci sono stati momenti precedenti, abbiamo parlato anche relativamente a lungo con lo staff, con la Nancy Sutley, la sua ministra sostanzialmente della qualità ambientale, ma insomma tutto quanto in Italia è difficilmente pensabile, ecco, una cosa del genere. E poi questo è stato un po' un volano, perché comunque questo vi ha dato una forza anche d'impatto, una forza mediatica che per fortuna voi avete sfruttato bene. Quindi, come diceva prima, sono arrivate tante persone a chiedere, tante persone che vogliono appunto partecipare. Quindi questo è stato un circolo virtuoso quello che si è messo in atto. Eh sì, questa a posteriori ho capito che è la filosofia del premio, cioè quello di dare un potere straordinario a persone ordinarie, persone diciamo come me che in fondo si danno da fare, ma per fortuna ce ne sono tanti, ma magari rimangono sconosciute per una vita. Ecco, questa opportunità è proprio studiata. Viene chiamato il cosiddetto empowerment, cioè attribuzione di potere ai leader di comunità, evidentemente, forse, cioè se io dovessi sintetizzare i momenti più importanti, forse è stata la premiazione di San Francisco, perché è bellissima, bellissimo il party con tutti i bambini, i ragazzi, i genitori di origine italiana che mi venivano a chiedere in italiano stentato se insegnava ancora. Quindi dal punto di vista umano sicuramente la premiazione, con oltre 3.000 persone a San Francisco, dal punto di vista politico e di quello che rimarrà sicuramente l'incontro con Obama allo Studio Ovale. Cioè io francamente quando sentivo da ragazzo parlare dello Studio Ovale pensavo a un luogo mitologico, cioè effettivamente il momento in cui è finita l'avventura americana, io quando sono tornato in Italia ero frastornato. Sono Star Trek adesso che attraverso gli universi, e ovviamente mi do da fare in modo ossessivo perché voglio sfruttare finché posso l'inerzia, certo, la spinta, questo Big Bang che mi è venuto da questa avventura, perché il premio viene dato sia a un singolo, ma un singolo che rappresenta una comunità, e quindi è anche un dovere da parte mia andare a aiutare le comunità che mi chiamano, perché altrimenti Rossana Ercolini chi lo conosce? Ma Rossana Ercolini, che ha vinto il premio, ha incontrato Obama. Ecco, questo consente alle realtà locali di costruire l'evento, e quindi quando vado in giro per l'Italia, anche adesso sabato sarò in provincia di Taranto, e trovo il sindaco, trovo l'assessore, cose che prima non avveniva, perché non eri nessuno dal punto di vista purtroppo di quelli che sono gli standard dominanti nel nostro paese, dove non c'è un grande rispetto per la democrazia che viene dalle comunità. Ecco, forse bisognerebbe trarre lezione, comunque stiamo pedalando e Rifiuti Zero sta sold out. Senta, maestro Ercolini, l'ultima domanda che le faccio: lei sta continuando a insegnare? Perché mi ricordo che prima, quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, mi diceva di mattina no, perché sono coi bambini, quindi lei continua nel suo lavoro di insegnante, di maestro elementare? Sì, continuo. L'anno scorso avevo una quinta, quei bambini tremendi, ma simpaticissimi, 27, li abbiamo consegnati alla prima media, e adesso abbiamo una prima elementare che è la classe più importante, e quindi io è come se avessi due vite, in realtà comunicanti, perché l'elemento, il denominatore comune è l'educazione per gli adulti, l'educazione della comunità, l'educazione dei bambini. Però è come se fossero due vite, perché chiaramente è un lavoro, ho la programmazione il mercoledì pomeriggio, non posso mancare, non voglio mancare, ho la vita con la mia collega che mi aiuta tantissimo, ma mi rimprovera sempre, Aida, e quindi però ecco, io voglio mantenere, anche perché non solo mi piace fare il maestro, ma anche perché voglio mantenere indipendenza, io non voglio fare di professione l'attivista o il consulente, poi dopo devi in qualche modo arrivare a dei compromessi. Io voglio dire quello che penso in piena libertà, ovviamente in modo educato, però in piena libertà. C'è bisogno di andare fuori, diciamo così, dal partito degli interessi. Tutti sembra che abbiano da dire perché hanno degli interessi alle spalle, degli interessi privati. Ecco, io credo che invece oggi dobbiamo davvero, ecco, avere vision. Questa parola che in Italia essere visionari sembra, quello è stupido perché ha una vision, è visionario. No, invece ho notato che nel linguaggio anglosassone e negli Stati Uniti non puoi avere una, diciamo, non sei considerato, meglio, sei considerato se hai vision, se riesci a vedere oltre la siepe, se hai un progetto. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow. Questa è la storia di un maestro elementare che ha avuto il coraggio di non mollare, di combattere sino ad ottenere ciò che chiedeva. Una storia contenuta nel libro Non bruciamo il futuro, un libro divertente e fresco che fa sperare in un futuro diverso per tutti noi, soprattutto per i nostri figli. La prima volta termina qua, vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento sempre domenica, sempre alle 13.30. Se volete potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it, potete riascoltarci in podcast. A domenica prossima, buona giornata da Cristina Carpinelli.